in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa non più solo europea ma internazionale. Abbiamo allargato un po' lo sguardo, quindi non ci occupiamo più solo di articoli o interventi sull'Unione Europea e le sue istituzioni, ma in generale di quello che i giornali stranieri scrivono su altri paesi e a volte quello che i giornali stranieri scrivono dell'Italia, il famoso visti dagli altri. Se volete, tra l'altro, io vi ricordo il mio account Twitter, è sempre un piacere, anche quando i messaggi magari non sono proprio positivi, ricevere un feedback da parte vostra. L'account è Giulia_Crivelli, quindi molto semplice. Cominciamo questa settimana da un articolo che è apparso sul Guardian, che in realtà è quasi un'inchiesta. Il Guardian ha il sito completamente gratuito ed è il più visitato sito in lingua inglese. E il Guardian è un giornale con una grande tradizione, soprattutto nelle inchieste. È un giornale britannico, completamente indipendente, controllato da una fondazione, e cerca davvero di dare dà un ottimo esempio di buon giornalismo. Perché questa premessa? Perché questo è un articolo delicato, si intitola Un'idea sbagliata di Islam. Negli Stati Uniti e in Europa i populisti sostengono che i musulmani rappresentano una minaccia perché sono nemici della modernità, ma è un pregiudizio che si basa su una visione distorta della storia. E come vi dicevo, è un lunghissimo articolo che Internazionale ha tradotto, ma che chi vuole può leggere in originale sul sito del Guardian. L'ha scritto Christophe de Belleg e ve ne leggo una piccola parte. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, nel pieno del dolore e della rabbia per l'attacco al World Trade Center, il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, non dichiarò guerra all'Islam. E qui si aprono le virgolette. Questa violenza contro persone innocenti viola i principi fondamentali della religione musulmana, disse. Bush dichiarò guerra non a una religione, ma al terrorismo e in particolare ad Al-Qaeda, definendola un movimento marginale che snatura gli insegnamenti pacifici dell'Islam. Pensate, non so quanti si ricordavano queste parole di Bush, che sicuramente erano, oggi non le sentiamo più. Oggi c'è un'identificazione da parte soprattutto di alcuni leader di partiti populisti, c'è un'identificazione quasi automatica tra Islam e terrorismo, tra religione islamica e terrorismo. Vi dico questo anche perché vi leggo un altro piccolo stralcio di questo articolo. Poi, a 16 anni dall'11 settembre, è arrivato un nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dichiarato apertamente guerra all'Islam. Chi non è in grado di chiamare il nemico con il suo nome, ha detto Trump in campagna elettorale, riferendosi a Barack Obama e Hillary Clinton, non è adatto a guidare il paese. E lui il nome l'ha fatto subito, l'Islam radicale. Ovviamente non abbiamo tempo di leggerlo tutto, però davvero vi invito a trovare questo articolo appunto sul sito di Internazionale in italiano o in inglese sul sito del Guardian, perché se non altro ci fa appunto riflettere su come in soli per modo di dire 16 anni è cambiata davvero la prospettiva sul terrorismo di matrice islamica e, come spesso accade, è il linguaggio a riflettere o magari persino a innescare questo cambiamento di prospettiva. Cambiamo argomento e cambiamo anche paese. La Süddeutsche Zeitung, che è un quotidiano tedesco, come tante volte ho detto, autorevole anche questo, insieme alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, è forse il più autorevole della Germania, ha pubblicato uno scoop si è poi dimostrato che aveva ragione, e che c'è stato un vero e proprio spionaggio turco da parte appunto della Turchia su turchi che sono stati vivono in Germania. Ora è stata aperta un'inchiesta della Procura Generale tedesca, e un portavoce della Procura riferiva sempre alla Süddeutsche Zeitung questa settimana, ha affermato che nel mirino degli inquirenti ci sono membri ignoti del servizio di sicurezza della Turchia, MIT, e che il sospetto è di attività di spionaggio. Il MIT ha consegnato al capo del BND tedesco una lista di 300 nomi di turchi spiati in Germania e di 200 associazioni e scuole, perché ritenuti gulenisti, cioè sostenitori di quel Fethullah Gulen, che sapete è un ex sodale di Erdogan, poi entrato in rotta di collusione con l'attuale presidente della Turchia, è in esilio negli Stati Uniti in questo momento, e Erdogan lo ha accusato di tutti i guai della Turchia sostanzialmente, e soprattutto dei terribili attentati del 14 luglio. Sempre in Germania la Bild Zeitung invece si è occupata di Brexit. Sapete che questa settimana, anche se il referendum sulla Brexit risale al 23 di giugno dello scorso anno, ma è solo questa settimana che è stata ufficialmente chiesta dalla Premier May, con la famosa attivazione dell'articolo 50 dei trattati fondatori dell'Unione Europea, è stata formalmente chiesta l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E secondo la Bild, che è un giornale tedesco e forse il più diffuso giornale europeo, però non è altrettanto autorevole né affidabile quanto la Süddeutsche Zeitung o la Frankfurter Allgemeine Zeitung. È quello che si dice in gergo anglosassone un tabloid, e spesso ha toni scandalistici in prima pagina, a volte anche qualche donnina nuda come i tabloid inglesi, per esempio il Sun. In ogni caso, il governo di Berlino, secondo la Bild, intende concludere i negoziati su tutte le questioni inerenti alla Brexit prima dei 2 anni previsti. Secondo la Bild, che cita un documento interno al governo tedesco, sono 24 sono i mesi ufficialmente previsti, ma la Germania vuole stringerli a 15. E per quanto riguarda in particolare i rapporti tra Germania e Regno Unito, ora che il Regno Unito non sarà più nell'Unione Europea, sono coinvolti 60 settori dell'economia, in particolare l'agricoltura e l'alimentare. Le Monde invece è tornato, la Francia naturalmente è in campagna elettorale, si stanno avvicinando le presidenziali che sceglieranno il successore all'Eliseo di François Hollande. Le Monde torna sulle inchieste per questioni fiscali su Marine Le Pen. I documenti che accusano Marine Le Pen, questo è il titolo della prima pagina di Le Monde di qualche giorno fa, secondo cui una missiva e degli appunti rivolti dal tesoriere del partito della Le Pen, il Front National, Valérand de Saint-Just, a Marine Le Pen, insieme alla testimonianza di un ex dirigente del partito, mostrano che la signora Le Pen era al corrente della presunta frode nell'assunzione degli assistenti parlamentari. Ricorderete, un po' come è capitato anche all'altro candidato alle presidenziali e come è capitato anche a certi europarlamentari italiani, sono state fatte delle assunzioni, chiamiamole così, facili. In questo caso la Le Pen appunto avrebbe fatto stipendiare dal Parlamento europeo persone che in realtà lavoravano esclusivamente per lei. A richiesta di presentarsi e se non altro almeno giustificare o dare la sua versione di questa vicenda, di queste assunzioni, la candidata all'Eliseo si è semplicemente rifiutata di in qualche modo rispondere a queste accuse. Però Le Monde, che è un quotidiano naturalmente con una posizione molto diversa, un quotidiano autorevole, cerca di essere molto obiettivo e indipendente, ma è comunque dichiaratamente schierato a sinistra, e ovviamente continua in quest'opera di, almeno se non altro, continuare a parlare di questa questione. Financial Times, nel giorno in cui è partito il negoziato per la Brexit, dà notizia del fatto che il gruppo assicurativo Lloyd's, i famosi Lloyd's di Londra, uno dei colossi del settore a livello globale, aprirà una sede a Bruxelles e sarà quella la sede europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, la capitale del Belgio è stata preferita ad altre, c'erano nella lista anche Lussemburgo e Dublino, proprio perché per la presenza delle istituzioni europee e quindi dei politici europei, e perché i regolatori locali comprendono come funziona il mercato delle assicurazioni. E continuano a arrivare un po' queste notizie su chi si trasferirà dove, quali multinazionali lasceranno Londra, o addirittura se ci saranno delle agenzie che da Londra si sposteranno in altri paesi. Avete sentito anche la delegazione che da Milano è andata a Londra questa settimana, c'era il sindaco di Milano Sala, ma c'era anche anche il presidente della regione Maroni, proprio per promuovere Milano come sede di alcune istituzioni che lasceranno Londra. Il problema è soprattutto linguistico, come potete immaginare. Ultima segnalazione che ho tempo di farvi da El País. Carlo De Benedetti, che è presidente del gruppo L'Espresso, uno dei principali gruppi editoriali italiani, ha concesso un'intervista a El País e tra le cose che ha provocatoriamente chiesto al suo intervistatore dice come sarebbe assurda un'Italia fuori dall'euro, come me la immagino io, come un Egitto del nord. Si sa, De Benedetti ha sempre dichiarato di essere preoccupato dalla crescita del Movimento 5 Stelle, lo ha ribadito in questa intervista auspicando appunto che anche se il Movimento 5 Stelle legittimamente dovesse governare questo paese, abbandoni l'idea più volte illustrata di uscire dall'euro o addirittura uscire dall'Unione Europea. Come vi dicevo, ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.